Purtroppo questo è una costante degli ultimi governi. Questa presenza in Arabia Saudita, il tentativo di fare affari con l'autocrazia di Bin Salman, non è certamente la novità del governo Meloni, e anche in casi precedenti abbiamo visto che alla delegazione governativa erano aggregati anche appunto dei manager di società più o meno controllate dal pubblico. E questo peraltro è un punto problematico, cioè si parla tanto di mercato, degli imprenditori, dell'attivismo, poi si vede che in realtà gli affari si fanno andando traino a degli accordi politici. Quindi da un certo punto di vista non è una novità, sicuramente però c'è un salto di qualità. La prima cosa, perché il governo Meloni è stato quello che ha deciso di riaprire tutte le possibili esportazioni di armamenti verso l'Arabia Saudita, anche quelle riguardanti bombe e missili d'aereo, che erano state invece bloccate dal governo Conte 2. Un governo Conte 2 che comunque faceva affari con l'Arabia Saudita, non ci ricordiamo Di Maio che andava a fare gli incontri, però quantomeno aveva bloccato quel tipo lì di vendita di armamenti, perché sappiamo che quelle bombe venivano utilizzate dall'Arabia Saudita per bombardamenti anche su civili nel contesto della guerra in Yemen. Invece il governo Meloni questo l'ha riaperto ed è stato propedeutico probabilmente agli accordi. Ma soprattutto c'è un altro problema che fa alzare il livello di questo scambio, che ripeto era già presente anche prima, cioè il fatto che si ipotizza addirittura delle joint venture nella produzione di armamenti. Si ipotizza cioè che l'Arabia Saudita possa entrare nella partita del caccia di sesta generazione GCAP, l'ex Tempest, che è al momento un accordo di produzione che viene fatto tra Italia, Gran Bretagna e Giappone. E questo sarebbe una problematicità molto forte, perché oltre ovviamente a fornire dei sistemi d'arma all'Arabia Saudita, così come se gli si vendesse, gli fornirebbe anche il know-how per una produzione e quindi la possibilità poi per l'Arabia Saudita stessa di rendersi autonoma in quella produzione e decidere lei a chi rivendere. Cose che sono già successe in passato, pensiamo al caso della Turchia. L'Italia, proprio con Leonardo, ha fatto in passato, prima che ora si chiamava Augusta Westland, una joint venture con i turchi, che adesso però gli elicotteri se li producono da soli e quindi li possono produrre per quanto vogliono, non c'è nessun tipo di controllo, la possibilità di rivenderli, la possibilità di utilizzarli in contesti come quello dell'Azerbaigian o come quello del Kurdistan. Ecco, allora è ovvio che sulla falsa riga o comunque in continuità purtroppo con una collaborazione che molti governi hanno cercato con l'Arabia Saudita per ragioni di soldi ovviamente, c'è una crescita, c'è un salto di qualità che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è ancora più preoccupante. Anche perché comunque l'Arabia Saudita si trova in un contesto specifico, quello del Medio Oriente, che già, come dire, è al centro di, oltre che di guerre, di tensioni, insomma anche di interessi geostrategici. Ma assolutamente sì, il problema dell'Arabia Saudita è duplice. Da un lato è un paese che viola i diritti umani, è un'autocrazia e quindi non possiamo andare a rafforzare questo tipo di governo, almeno questa sarebbe la nostra idea. Dall'altro, perché sappiamo bene quanto l'Arabia Saudita sia un attore cruciale nel contesto dei conflitti in Medio Oriente, si era avvicinato a Israele, dopo comunque il 7 ottobre 2023 l'attacco a Gaza si è un po' allontanato, c'è questo scontrasto continuo con l'Iran e noi andiamo a infilarci in quell'ambito, oltre ovviamente a considerare che tutta questa ricchezza dell'Arabia Saudita e quindi questa cosa che fa gola a molti dei nostri imprenditori e politici deriva comunque dallo sfruttamento degli idrocarburi, dallo sfruttamento del petrolio, che anche questo di base ha un po' di problematicità considerando la crisi climatica che tutto il mondo sta vivendo.